E quella finita era nada, non era male questa canzone in fondo. Ma adesso è l'ora di Disorder, ore 21:30 qui da Radio Onda Rossa 87.9. E www.ondarossa.info. Andremo avanti sino alle 23 circa. E prima di aprire le danze, rapidissimi saluti. Abbiamo Maya in Sardegna insieme a Nicola Locci, fedelissimi ascoltatori. A Torino Orlando Furioso. Da quelle parti sempre Marco Milanesio, produttore e musicista in vari progetti. Tabula Rasa, Cortina d'Ampezzo, Anna qui a Roma. Negli Stati Uniti dovrebbe ascoltarci in questo momento Des De Carlo del progetto Violet Noxon, ci sta ascoltando da Boston. Un saluto a Chiara Cassini, Tiziano Farinacci di Pi Greco, Doriana Panico a Taranto. Salutiamo Jean-Claude Oberto, Flavio Del Becante, Arianna Degni Lombardo di Noise Cluster, ottimo lavoro il loro, che presto, ultimo lavoro da nome Medusa, che ci ascolteremo presto da queste parti. Cominciamo con il tornare da Tamar Singer, già conosciuta negli Zeresh, progetto neofolk, ma che oltre a quello ha messo in piedi anche un'altra avventura musicale dal nome Cruel Wonders, che parzialmente riprende il neofolk, ma qui è ancora più marcata. Marcato, diciamo, l'atteggiamento più di psichedelia rock e doom metal. Questo album si chiama Clay Vessels, autoprodotto, e si apre con questa traccia dal nome The Crown. See? la screziata psichedelia rock di Cruel Wonders con questo Clay Vessels, secondo lavoro per Tamar Singer, che suona ovviamente la chitarra e canta, ma alla chitarra elettrica c'è anche Vlad Schusterman al basso e i rumori addizionati, sorta dunque di tributo in un certo senso anche ai primi Pink Floyd, se vogliamo, in alcuni frangenti quantomeno, e quindi ci si allontana parecchio dal concetto del neofolk espresso, come ho già detto, in Zeresh. C'è qualche traccia, ma fondamentalmente è rock e psichedelia. Ospite anche il Davide Borghi di Albireon, che ha contatti frequenti con questi artisti. E giustamente Tabu Rasa va a sottolineare che anche, diciamo, in free download questo disco sul profilo Bandcamp, e quindi lo vado proprio a consigliare, perché è un'opera importante, uscita sul finire del 2021, a un anno circa. Tamar Singer è anche in piedi Necromichka, un progetto più industrial che presto conosceremo, oltre a condividere con altri musicisti americani Autumn Tears. Andiamo avanti e arriviamo qui in Italia. Intanto vado a salutare anche Laura Spirit Crusher. Andiamo da Nicola Manzan, che abbiamo conosciuto in passato soprattutto come Bologna Violenta e anche complice in qualche modo di Polonia Violenta, che era un disco geniale dove veniva campionato Papa Wojtyla con del noise metal in sottofondo. Qui invece c'è un ideale cosmonauta russa dal nome Nikolai Kulinov, che ci porta un po' in una dimensione, un immaginario da realismo socialista anni 70. Nella grafica e nelle anche atmosfere musicali, nei campionamenti che andremo anche a verificare. Ci ascoltiamo First Communication Attempt, Plasma, anzi no, Space Theory e Interstellar Downgrade. Один, здесь, Надежда, in linea. Там присутствует инженерная работа, руководство крупнейшим заводом, и все это было связано с укреплением экономической и оборонной мощи страны. Партия предала тебе пост народного комиссара вооружения. Нужно ли говорить, какие огромные задачи везде на твоих плечах? I don't know. parecchi minuti li abbiamo dedicati a questo Nikolaj Kulikov di Nicola Manzan, già di Bologna Violenta, ma anche Torso Virile Colossale, una stranissima concezione di Martial, un progetto che presto ascolteremo anche qui a Disorder. Qui il krautrock si andava a sposare anche con momenti di sperimentazione, ma anche di accenni morriconiani, di prog. Elemento quest'ultimo che di tanto in tanto esce fuori negli intendimenti musicali di Nicola Manzan. Peraltro anche ottimo violinista. E quindi lasciamo Nikolaj Kulikov e questo immaginario da socialismo reale. E rimaniamo in Italia. Qui invece c'è dell'elettronica, della Dark Wave, e sto parlando di P. Greco e di questo album dal nome Il Rasoio di Occam. Loro vengono da Roma e Il Rasoio di Occam lo si può trovare su SoundCloud e Spotify eccetera eccetera, ma soprattutto si può anche andare a vedere qualche informazione più particolareggiata sul profilo Bandcamp di P. Greco. Ci ascoltiamo Non Ricordo Più e Ante l'Evacuazione.